Pensavo di basso. Basso come? Che ti sento chiaro, ma sei tipo lontano, boh, non lo so, lontano, basso rispetto a M. La M è più forte la radio, lo so che in M è più forte la radio. Guarda, adesso aumento anche la cosa microfonica. Sollevo un po' i toni e sollevo un po' il volume a vedere. Good morning, my friend. My name is Golf Alpha Victor India November Oscar. Gavino Nord Sardegna. Come on, my friend. Good morning. Good morning, thank you. Come on, my friend. My name is Golf Alpha Victor India November Oscar. Golf Alpha Victor India November Oscar. My name is... Oh, my friend. Good morning, my friend. Signal 67, 67, 68, radio 5, radio 5. Complimenti, my friend. Come on. Thank you very much. Thank you very much. Oh, out. Goodbye. Control radio, my friend, please. Control radio. Okay, my friend. Okay, my friend. My transmission Galaxy Saturn Echo 60 whisky power 60 whisky, my friend. Mio QTH Nord Sardegna Sorso. Cioè Gianni, chi ci ha detto very very good, la radio è bella. Io adesso ti sento fuori, proprio sei incomprensibile. E così come mi senti? E così sei alla grande, così è chiarissima, bella. Allora, tu quando tu parli, se io giro in AM ti sento bene, se lo metto in FM non ti sento bene. Cosa vuoi che ti dica? Boh, non lo so. Io adesso ho fatto una chiamata da fuori e mi ha detto che la radio è buona. Non lo so, ho regolato il corso come hai detto tu, in AM è perfetto, in FM allora ho un diverso problema, non lo so. Perché non vorrei che, ho il dubbio che sono io, ma non credo che sono io, perché io sono perfetto qua a 27.105, no, non lo so. Gavi, non lo so, allora vuol dire che chi sa radio. Comunque quando parlo in FM, in AM con gli altri, quando c'è qualcuno in linea, non te lo so budi. Vediamo se magari entra Franco, dopo a vedere. Magari ci dà un parere anche Franco. Magari può essere la mia, può essere qualcos'altro nella mia, non lo so, Aspetta che vi rifaccio l'ascolto, Allora, prova, ola, prova, ola, prova. Aspetta un attimo, Prova, ola. Prova radio, test, prova. Vediamo un po', così no, prova, no, se vado a togliere, prova, ora, prova, assolutamente no, prova radio, ora, prova. Ti ripeto, quando sei in FM parlando ti sento strano, se metto in AM ti sento chiaro e bene. Prova, ora, allora, prova radio, prova radio. prova, hola, prova, prova, radio, prova, prova, prova radio, prova, hola, prova, prova radio, prova, hola, hola, hola, prova, prova, prova radio, prova, prova, prova, prova radio, prova, prova, hola, prova, prova, prova radio, prova, prova, prova radio, prova, hola, prova, prova, prova radio, prova, prova, prova, prova, prova radio, hola, hola, prova, prova, prova radio, prova, prova, prova, hola, vediamo un po', prova radio, prova, prova, prova, prova, prova, hola, prova. Radio, prova, prova, prova, prova radio, prova, prova, prova, prova, prova, prova radio, prova, prova, prova, prova, prova, prova radio, prova, guarda a vedere, prova, prova, prova, prova radio, prova, prova, prova radio, prova, prova, prova, prova, prova radio, prova, ora, prova. Prova radio, prova test, prova. Prova, prova radio, prova. Bravo, mi senti? Guarda a vedere se mi senti bene adesso. Allora, adesso sono con il 68 su 12 in FM. Perfetto, e io ti ascolto benissimo, eh. Tu che mi copri? Ti copio bene, ma se metti la M ti sento più caro. Aspetta, aspetta un attimino, aspetta un attimo, eh. Allora. Aspetta che sto facendo una cosa. Con l'antenna bastone sono con questa radio. No, poni un'antenna come ti si devi già. Cioè, io sto toccando qua la radio, che mi ho messo il coso, allora così, e com'era prima. Eccola qua. Allora, così dovrebbe essere un po'. È più forte così la radio, giusto? Gaffa, allora perché con il 68 gli ho messo l'antenna mattone come invece il Galaxy c'ha l'antenna la Dime o System o come si diciamo, però se abbasso il tastino in AM con il 68 ti sento più chiaro e ti viene meglio, io non lo so perché. Ma ti viene male mettere l'antenna nel coso, nel 68 a te? Devo scambiare una cosa per metterla, mi viene male adesso. E allora, non lo so, prova, prova, può darsi che ti sia anche, ma non credo che sia, aspetta, Prova, guarda a vedere se mi senti bene adesso, prova, prova radio, prova, guarda a vedere un pochino. Forse sei troppo forte, troppo amplificato, può essere. Può essere anche, può essere. Però guarda se mi copi bene adesso, se sono comprensibile. Sono comprensibile, sei comprensibile, però è una timbrica diversa. Se io abbasso adesso il tastino in AM, la timbrica tua è, diciamo, la tua. Ma così in FM è diversa, più robotizzata. Perché la radio in FM è forte, già, la radio in FM è forte, cioè non è che... Allora, aspetta un attimino, prova, prova, prova, prova radio, è perché è forte la radio, capito? Prova, prova, è forte la radio, è anche... è il microfono anche, è il microfono anche, prova, allora, vediamo un po'. Io ti ho capito a te cosa stai dicendo, che è troppo, troppo forte, troppo forte. Così non ce n'è, così non ce n'è, così non ce n'è, così non ce n'è, prova, prova. Così addirittura è anche troppo forte. Prova, prova, prova, prova radio, prova, dove? Prova, prova, prova. prova radio, prova. Cioè, se lo metto al massimo il Mackie Gain è assurda, eh. Prova, prova. Su 12, l'FM ti sento bene, però come se tu fossi sì, troppo forte, quindi mi arrivi, mi sappi anche M, però in AM ti sento più chiaro. Passa in AM. Prova. radio, prova, ora, prova radio, test e prova. Sì, l'FM cambia, si ammassa e sei un po' più robustico, ma magari è troppo forte la modulazione. Prova radio, test e prova. Posso? Dammi, non so cosa lì. Posso anche con il 68, Sì. Ma ahimè, tu non hai messo la... in FM è robotica, così è. Ma sì, nemmeno in FM. Ascolta, ci sentiamo dopo già, dai. FM rimane più robustica, ma se si mette la M si sente più chiaro. Non capisco il motivo. Qua sono con il 68 studiando l'M24, quello che mi hai fatto tu, come è regolato l'altra volta. La radio mia non c'ha niente già. Adesso chiamo a Franco, lo faccio entrare e vedo un attimino se c'ha qualcosa la radio. Dai, aspetta. Sì, fammi sapere una cosa, io già sono con le radio accese. Sto ascoltando con 4,50, se vuoi commuto altra. Ma è comprensibile, sono fuori frequenza, sono fuori di qualcosa. Ma cosa, aspetta, ti abbasso anche, parla. Allora, questo qua è, diciamo, te l'ho detto, e ce l'ho attaccato al BV131, ho il Mac Gain a 7, tu secondo te posso aumentare un pochino la radio? Per me sì, e non hai nulla di fitti, vai. Ok, adesso l'ho messo al massimo il Mac Gain, Adesso ho messo il Mac Gain al massimo, ho aumentato la radio. Ha aumentato sì, e va meglio. Ok, adesso aumento un altro po', aspetta. Dovresti sentire dei rumorini perché sto toccando, adesso dalla fretta c'ho i cacciaviti non conduttori. Guarda a vedere, adesso ho aumentato ancora di più la radio, guarda a vedere, buona. Boh, lasciala così. Perfetto. Quindi la lascio così la radio, è buona. È forte, ti ho abbassato il refrigerante, ti ho attenuato e la modulazione è buona. Passa in AM, fa la cortesia. Prova. Ok, guardala in AM a vedere se è buona la radio. Sì. Beh, diverso dall'FM sì, però è sempre forte e buona. Cosa deve fare in qua? Cioè, mi sono messo a toccare e c'aveva... Aspetta. Prova. E c'aveva i picchi positivi, mi sono messo a toccare dalla fretta, adesso devo ritarare. Guarda a vedere, va bene, dico, va bene così. Ma guarda che io ti sto guardando anche il DB, se è in positivo mi fai da zero a fondo scalami. Boh, vabbè. Comunque la lascio così, è buona, è accettabile, è satura, va bene? No, non è né satura né niente, è buona la radio. Passa in uniform, Sierra Bravo, fa la cortesia. Prova. Fammi un passaggio che ti centro. Sì, appena fuori frequenza, vabbè va, prova a centrarmi tu, così almeno non attacco l'altro, dai. Guarda un pochino, 1, 2, 3, prova, 1, 2, 3, 4, 5, 6, sei riuscito? Sì, ti ho centrato io, tu sei adesso qua, sei perfetto. Anche tu, 9,40. Porca miseria, passa in FM, fa la cortesia. Aspetta, riprendi. Eccolo qua, prova, fa un passaggio che ti sei spostato un pochino e ti centro io. No, lascia così, sì, 7 punti appena indietro. Vabbè, però è buona. Sì, è buona, appena, per essere più chiara te lo sto dicendo. Sì, passa in FM, fa la cortesia. Sai perché? Perché rimane più fino alla modulazione, non per altro. Rimane più fina in banda, c'ho il microfono originale, però vedi, la NFM ha migliorato, è più forte. Sì, va bene, io mi sono accorto di aver cambiato il radio, figurati. Quindi, Gianni, senti Tino cosa ti dice. C'è Gianni anche? Sì, c'è Gianni, senti Gianni. Senti Tino, tu mi senti, io sono con il 78, insomma, perché stavamo facendo delle prove. Vabbè, però non mi dire che questa radio va male. No, non va male, allora l'FM lo sentivo forte, troppo forte, e se mi attorno l'FM lo sentivo bene, e forse perché magari era troppo forte. Io adesso sono sul 12, sono in FM, senza filtro, senza niente attaccato, sto facendo i fatti normali nella radio, e c'ho l'MD più 4 attaccato, basta. Vabbè, ma in base alla recezione non c'entra niente come sei tu in trasmissione. Tu a lui lo senti bene adesso? Eccomi qua, guarda a vedere, mi copi bene adesso, guarda un pochino. Sì, ti copio bene, però ti sento tipo troppo forte, come tipo tu di un spettacolo si sente. Vai, ti. Aspetta, guarda, ti faccio un video, vai Gavi, parla tu così ti senti anche. Ok, perfetto. Guarda un pochino, saturo, non credo di essere saturo, perché non è che lo sto facendo ad orecchio, lo sto facendo, credo di averlo fatto in un modo sensato sta roba, Poi è entrato un altro, lampa di tutto, maledetti. Ma proprio bene, ti sto ascoltando, cazzo, ti sto dando anche un consiglio, forse sono anche più lontano di voi, non ti devi offendere, cazzo, componente, cioè, insomma, ragazzi. Ma chi è questo dall'oltretomba? Chi è? Che non sta uscendo neanche in radio, chi sei? Buongiorno, chi sei? Vabbè, la riprendi Gianni. Gianni! Ma no, mi stavo facendo una cosa, per quello che mi sono invitato. Quello che è stato è Giovanni, non lo so se è Giovanni, come si chiama? Giovanni Stanco. Io segnale c'è, ma radio non ne ha, per quello sto chiedendo chi sia da mezz'ora, ma non mi risponde. Allora ragazzi, il mio è un problema dei connettori, teniamo presente che ho un 68 come c'ha Gianni, e c'ho un'antenna 420 di altezza, un impianto che lampado ora alleva e non segue a nulla, tornando lui usa. Però ascoltandovi posso dare un consiglio, io a Gianni, quello di Soso, lo sento benissimo, come sento bene a te. Quest'altro ragazzo che sta facendo tutte quante le prove, sta tarando, in FM lo sento che è uno spettacolo, ma in AM non lo sento molto bene, poi gli ho detto anche che ci sono dei bruci, tutto lì, poi quando ha giunto l'Ampazio, stavo entrando e stavo scherzando, lo credevo un'altra persona che con me c'ha confidenza avrebbe accettato la battuta, tutto lì ragazzi. No vabbè, buongiorno comunque, io quando ti ho chiesto chi sei è perché non ti ho riconosciuto, quindi non ho... la tua motivazione credo che sia a mio piacere negativa, comunque se hai problemi di radio purtroppo non so le tue condizioni, quindi non posso giudicare. Intanto è vero che ti ho detto che sei basso, hai un segnalone però sei basso. Ascoltati, dai, ti ringrazio, comunque adesso ho la sicurezza che è a posto, perché caspita, porca miseria, Giulio, ma chi si sia tarata Canuti con le coglioni che abbia avuto gli incubi? Boh, non lo so. Giovanni Stanco, allora prima di entrare, assicurati che sia quello che conosci, perché non, io stavo facendo delle prove con degli strumenti attaccati. Quindi quando si entra in una frequenza, che sia una in 27, che sia dove vuoi, devi prendere e si dice buongiorno, ti presenti e allora poi puoi scambiare anche la battuta, perché no, no, la radio non si fa così, in altri canali si può, in altri canali puoi fare quello che vuoi, qua no, che sia proprio ben chiara la situazione. Questo ragazzo sta facendo le prove, questo ragazzo io mi chiamo Gavino, mi chiamo Gavino e sto facendo delle prove e non va bene che tu entri la pazzia, perché io e tu non abbiamo mai giocato assieme. Con questo, che sia ben chiara tutta la storia, io ti faccio una bassa, sentiamo dopo. Ciao Gianni Sampei e sentiamo stasera. Ciao, ti faccio una bassa. Va bene, sono qua, dai. Ciao, ciao a tutti. Guarda, mi hai mortificato, comunque, guarda, dai, andate. Ciao, ciao, ciao. Ok, dai, ciao ragazzi, magari ci sentiamo prossimamente, dai. E niente, dai, un po' di noi non ci aspettavamo un tanto per far arrabbiare. Allora mi posso fare una chianata io con quel tutto e salata, dai. Almeno c'ho qualcosa da fare. Ciao ragazzi, ci sentiamo dopo. Ciao Giovanni, ciao Tino e ciao Gavi. Ciao, ciao, ciao. Ciao Gianni, buon appetito, ciao. È ancora meglio di lì. Gianni, tu ho 68, come mi occupi? Ciao, io ti occupo un rauco, tu non lo so. Troppo vicini siamo già, sicuramente siamo troppo vicini e vado a saturarti la ricezione già. Oh Gavi, ma il video l'hai visto? No, non l'ho visto il video, adesso come chiudo lo guardo, sì. Adesso come chiudo lo guardo. Perché stava caricando il piccione, già lo sai che è lento qua. Ah ok, vai, prova in AM. Prova e prova. Sì, va bene anche in AM, va bene anche in AM. È leggermente più più fina, diciamo, la M, e nel FM è un più grossolana, più così, cioè, più presente, diciamo, la radio. Sì, sì, sì, sì, sì, perché va bene, M devo aprire un po' la modulazione, forse per questo. Però magari stasera non faccio, stasera gli apro appena la modulazione, non quello che è proprio il trimmer da regolare. Però, caspita, mi gioca su da giudice, porca miseria, ma siamo qui per fare la comunità. Vai in uniform. Fai un passaggio. No, qua sono centrato, sì. No, ti devo centrare io. Ah, prova un po', guarda un po'. Ma tu sei così buono, Posso anche guardare con la direzione ricezione, vediamo cosa succede, prova. Guarda bene, prova, guarda un po', se domani dovrebbe essere a posto, A Bisese? Sì, ci sono, ma sei fuori, centrami tu, dai, centrami tu, perché sennò poi succede che ti centro io, mi centri tu e non ci centriamo, ci sbagliamo entrambi, va bene? Così sì, io ti ho portato come in FM ed ho proprio tutti e due, dai, sono centrato a, cosa ti posso dire, sono preso il cursore al centro. E appena si è spostato, 07. Vabbè, ma quello me lo ritocco, no, è come mi sono messo, l'abbiamo provato anche l'altro giorno, sì, è come mi sono messo a prendere, ho attaccato, te l'ho detto, quella roba e mi sono messo a vedere se era fuori, ma era tutto a posto, passa in FM, passa. Insomma. Perfetto, e considera che io c'ho anche, sto uscendo con 6 watt, sto uscendo con 6 watt, non ho l'amplificatore, l'ho spento l'amplificatore. A me piace un bel, se vuoi ci registro anche qua. Ma tranquillo, se ti ho chiamato perché dai, non c'è nulla, non ti preoccupare, ti ringrazio per la gentilezza e scusa il disturbo. No, parla che faccio una cosa, vai. Ia, eccolo qua. No, ti ho chiamato perché ho detto adesso se c'ha due apparecchi mi controlla un po' come la questione, perché era perfetta, cioè era ed è perfetta. Te lo mando. Ja. Grazie, sì. Grazie. Di nuovo, gentilissimo, e scusa il disturbo. Io preparo quella roba, ci sentiamo stasera. Sì, così ti ascolti, come ti sento e valuti, perché l'ascolto è diverso, con 450 e con l'altro. Perfetto. Grazie ancora. Ciao Tino e ciao Gianni. Buon proseguimento di giornata. Sì, va bene, ciao, altrettanto. Va bene ragazzi, dai, divertitevi, che sto facendo cosa in casa, sono entrato giusto per dare un controllo al gavino. Ok, ciao Gianni. Ciao Tino, aspetta un marco, ti vedo in mare, io ti giornata di marmi più. Il caminetto. Va bene, ciao. Ciao Tino. Ebbene, avvieni Vigidi. Uffa, beh, ciao. Ciao Tino, hai la stessa io e così da avviene. Ma veramente mi ha chiamato Gavino che aveva un problema di radio e sono entrato per cercare di risolvere. Non era mia cosa di stare in radio adesso, stavo facendo cosa, però 5 minuti te la tengo, dai. Ciao, buongiorno, ben sentito, io devo chiudere, sentiamo stasera, vai fra. Cappa, e tu quando sei tutto compresso, buongiorno Gavino. Compresso come? Sattolo. Troppo forte sono. Oh, a me, guarda, gli ho fatto anche la registrazione, è perfetto, forse perché siete troppo vicini voi, buh. Prova a bella vicinanza, capita, no. Magari a te è perfetto, ma qua è un po' saturo. Vabbè, ragazzi, io non so cosa dire. Io la sua emissione nei miei confronti gliel'ho fatta anche in video, così poi valuta lui a orecchio suo. E poi piano piano già riesce a modificarla, già riesce Gavino. Avanti Gianni! Buongiorno Franco, come mi senti con il 68 e l'antenna piccolina Mattone? Come ti sento con Gala che sono lei che è senza bastone, con l'antenna lunga. No, perché stavamo facendo delle prove, allora ho detto aspetta che ho acceso il 68 che è sempre attaccato e niente, con l'antenna piccolina e l'MB4. Sto viaggiando adesso con questo, sono in FM, senza filtro, senza niente attaccato, va bene che noi siamo vicini, perché ho l'RSM che guardi al massimo, e invece il microfono ce l'ho a 3/4, dai. Cappa, va bene, va benissimo la radio, va. Poi noi siamo zucco vicino, come ti... e qui allo stesso livello quasi, non di Gavino ma quasi, e siamo troppo vicini, però ti ascolto benissimo, ti ascolto. O abbassi il tono della voce perché stai urlando, o abbassi l'amplificazione. Il tono della voce? Faccio così, guarda. Va meglio così? Perché stavi urlando davanti al microfono e rimaneva quasi incomprensibile la voce. Vabbè, io vi mollo che devo fare cose, dai. Sentiamo magari stasera se coincide. Il microfono io lo uso a 50 centimetri sempre, 50-60 centimetri. Va bene, dai, buon proseguo, buon tutto, dai, ci sentiamo. Tino, stasera. Andare, ciao. Avanti, Gavino è andato via, era? Sì, si è spostato, magari è Termingosa, non lo so. Comunque io sono a 20-25 centimetri parlando. Il microfono è anche per un po' più in alto di me. Però forse si è appena un po' complicato, però va bene, io ti sento bene, anche se ti sento, come dice, l'ho abbassato adesso il microfono, l'amplificazione del microfono, ma dovrebbe andare bene. Parlo più basso, là. Sì, no, già va bene, si sente più reale di voce, dai, invece più o meno un po' più compatto. Va bene, quando c'è l'amplificazione alta è un casino. Poi sto usando il Tanner, come alzi la voce appena diventa magari distorge, là. Andare, quindi oggi tra barbecue e un brudino, mi pare la giornata che è un po' da brudino, E in cappa, mi pare proprio di sì, vabbè, dai. Non è detto che bisogna fare un di barbecue, lo barbecue rimase quando si parte di bedi. Allora già ci sta, anche appena di brudino, di mostretti e un bicchiere di vino, e io arriva da Cristino e via lì. No, noi di San Cristino non siamo a Edia, a Caravasi lo lasciamo, noi viviamo a Ganonau. No, perché tanto non è manco buono per il padre di Assusseno. Appunto. Ehi, non solo Assusseno, pure alla base di Nuoro, in Sezzone, a Barbagia, il padre di buono, il vino. Altro che? Sì, ho avuto modo di assaggiarlo da allora. Dov'era nella zona del Noese, da dove avevamo preso il fuoristrada, lì vicino a Gardillo c'è un altro paesino, e perché quella stazione dove facevano il film western nel bar Mauta, e fanno un ultimo vino lì. E allora, in Nugnarugo in Sardegna lo vado nei buoni, in Nugnarugo. C'è chi più chi meno, però lo vado nei tutti buoni. Grappa. Stavamo provando le radio, mi sa che poco fa è entrato Giovanni, adesso mi chiedo il disegno in pressa, se non me lo ricordo. Comunque io sento sempre, da me lui è un po' più lontano di me, nel senso che, però io lo capisco bene quando parla, anche se lo sento basso. Profeta mi pare si chiama quello che è stato poco fa. Non lo so, magari se ci sta ascoltando ci può dare conferma. Oppure non lo so, può darsi che era un altro Giovanni. Se mi sente, perché avevano fatto due risate e si potevano fare le risate. Anche una volta che erano lì in un libro, che ho fatto quel passaggio lungo. Dove sei Giovanni Stanco? Giovanni Stanco, dovrebbe essere lui, sì. Arriva bene anche qua, arriva. Io lo ascolto molto bene. Caparoggio, invece l'altro giorno c'era lì su Gianfranco Alcimia, lo Revenna, che ha detto sono sull'albero, sto cercando le banane. Ha detto, buone di Ugasco, era mai mi sta andando lì. Gianfranco Alcimia. Ma non mi è nuovo che c'ha detto Gianfranco la scimmia, vabbè, là. Va bene così. Sì, niente, ma bisogna anche ridere un po', dare un qualche volta, se no è la cosa tutto monotona, capito, nel senso che abbiamo le radio anche per fare qualche battuta, se no siamo due fusili, se abbiamo due, cioè io la penso così, poi ognuno e c'è il suo modo di pensare, è bello anche quello perché il mio è diverso, però dai, un po' di ironia già non fa mai male. Non fa male no, va bene così. Mi avevi detto il 68 stavi usando, il 68, il Galaxy come mai non lo stai usando? Perché ho fatto, è acceso lì, con il volume basso, aspetta che adesso abbasso questo e parlo con l'altro. Capo. Ma c'hai l'antenna grande, c'hai lì al Galaxy. Adesso modulo con quello là, faccio un passaggio con l'altro, con il sangue. Usalo, che se ce l'hai usalo quello lì, quella radio lì, che è bella. Ah, ma fuori frequenza sì. Kappa, io a chi aveva venuto di blu, adesso sono in FM. Ok, eri in FM, eri. Così come fa? Una bomba. A te che la cittadinanza combustuata sulla blu, quindi squash, RFG, eccetera, eccetera. Aspetta, mettiamo come c'è la verba, voltone, così. Michela, così. Come mi senti adesso? Benissimo, benissimo. Metti in RFG, mettili a massimo sempre, Denery. Io non sono tutti e due, non dico a 10, ma a 9,99, là. Buonasera, al massimo. Futtidini di visto, fuori lo dono, lo tieni come ti piace a te. Lo tieni. E io adesso sono come tutto là. Andare, poi se capita che sei troppo alto di amplificazione, visto che stai usando il tunnel, puoi usare anche l'amplificazione del microfono, abbassarla, se proprio, ma stai andando bene, l'avrei lasciata così. Sì, era più o meno attacca bene, però stavamo facendo delle prove, quindi ho toccato il corso, che questa rimane appena di uno o due numeretti un po' strozzata, però il resto va bene. Senza niente, senza le lineari, le lunghe attaccate, a noi è normale. Chi fai sul lineare? A chi io, il lineare faccio attaccare. Ce l'ho acceso, però è staccato, perché siamo troppo vicini, non ne vale la pena usare un lineare. Comunque come voce va bene. A voglia, bellissima. Comunque con il 68 mi sento più forte a tutti. Ci senti più forte? No, come ti mai? Magari trattava l'inghiera in Corea, che si radio e c'hanno magari più ricezione a livello fammi, quando c'è il 68 con il MD4 mi tengo a tutti, se poi attacco lineare mi dà tipo dei watt in più rispetto al Galaxy. Perché al Galaxy quanto ti dà? A dirti la verità non lo so, perché l'S-Meter mi sembra non allineato questo del Galaxy, però quando io parlo con l'S-Meter mi rimane a 4. Non può essere, capito, se poni un lineare non può essere a 4, una cosa strana, perché io adesso c'ho, allora, Aisha, vedi? Allora, eccolo qua, 6 watt, sto uscendo, 6 watt io, sto uscendo. E se aggancio, ecco, aspetta, ecco, già è pronto. Allora, se aggancio, me ne dà 100 puliti, me ne dà. Guardate, 100 puliti, puliti, puliti. Ehi, ho capito, ma allora, se attacco lineare al Galaxy, c'è l'RF Power che forse magari ti l'aveva prima, magari è regolato a 5 watt, non di più. Quando attacco lineare, il lineare mi segna 85, 90, anzi 90. Poi c'hai una rotellina, c'hai tu, che parte da 0 a 10. Quello rotellone, quello grande, tunnel. Quello lì, tu ti devi giostrare, ti devi giostrare come quello lì, sollevare e abbassare e guardare la e guardare lo smitter del rosmetro, capito? E guardi se sale o scende. No, quando ho capito, ma tipo nel mio bilancio il lineare lo metto dove rimane al centro la frecciolina quando va tipo destra e sinistra, e poi la bilancio in modo che non va né a destra né a sinistra, che rimane e va bene così. Ma vai a tappo qui. Adesso per esempio, siccome c'ho la venturina che è accesa, mi sta segnando forse che è freddo, comunque 80, lineare mi sta segnando 80, il rosmetro l'ho tolto perché dice non funzionava bene, allora l'ho staccato, ho messo direttamente il lineare basso. Ah, hai messo solo lineare, hai messo. E il rosmetro e lineare ti segna 80 nel monitor suo, ti segna. Allora, a me va 110 mi dà. Allora, mi sta dando quel rosmetro lì, quel non rosmetro, lineare. E invece il mio segna 90 segna il mio. E prova a aumentare la rotella a vedere, portala verso il 7. E segna 95. E chiappa, dai, già sta andando allora. Già sta andando. Già sta andando. Lampadina di un gozzo, il bilanciamento dell'antenna si deve essere giusta, però là ci funziona tutto, un relì, tutto funziona tutto. Vabbè, la lampadina, quella è sostituibile. Va bene, esci di tutto, se no il caso di rompendo. Ecco preso, vai a andare, da. Già va bene, infatti tocco faccio avevo lo squelci che era tipo registrato un pochino meglio, diciamo. Adesso l'ho aperto appena di più e quindi si sente un po' di sottofondo, va. Ma già va bene uguale, almeno se entra qualcuno lontano già si sente bisbigliare. Capo, sì. E c'avevi una cosa. Ok. Oh, 8 watt. 8 watt. Ok. Ah, ecco. Porca miseria. Ok, 8 watt. Dimmi una cosa. C'era la modulazione? Gaffa, sì, andava perché l'SMIC mio segna 9 più 20. Vabbè, quello sì. No, stavo dicendo solo se era chiara la modulazione. Adesso ho aumentato 80 a 8, a 8 watt di ingresso e mi sto dando pocarello via, sento 30, quasi 140. Allora mi chiedo l'autovelox, non è peso lì, autovelox in linea lungo a Roma, 30 km orari in città. Vabbè, non arrivo a Roma io. Da Roma si va, passeremo. Allora, Roma. Vabbè. Se fate venire un corso di velocità in Oga, allora siamo buttiti. Ma è ovvio che non avremo bisogno, tanto me, se non mi si dà le clari di non le buttare in aria, che tanto arriva una stessa velocità e vedi un fusso e ti si drappa Roma, Cerchione, se non sei attento capoteggi, buh. Che hai visto com'è un rettilineo di Marrissa? Che da voi lo comprendo io, questi giovani in moto, che si muovono la strada, metti i vasi a passare fuori tu, che si rivaleggia, buco, certo, buco, la qui a porre a quelli lì. Sono coraggiosi. Ma è non rogo, sia dentro la città è fuori, e non rogo, tutta buchi, tutta... non ne so più arrangendo il tratto. Poi, comunque, dici che vettola su Bissino in giro a bere le macchine e prendere i nemmeniti. Ha visto a Bissino alle Fiori, non lo so se abita sotto gli scalini tu in quella zona lì. Dice che gli ha aperto di nuovo la macchina e ha una caverna invece che ne faccia del finestrino, infatti ne fitto. A vedere cosa abbiamo detto su Ficchini dentro la macchina, che tanto oramai non era sale più di spiccioli. E niente, poi hanno aperto il bar di Agostino Paoli, per l'ennesima volta ne fa cadere un pezzo della Iana di Dariddu e ha bisogno di ne fuori 50 euro da dentro. Ma va, io non ne faccio a comprendere. Ma chi caglietti, no? E da voi dici che non rimuoveva nulla, ti dici che chi sei malato, che è tipo ritardato e quindi ti trovi a staccare, vado subito. Ah, che l'hai visto? E dici che stai in Senaredo, vicino all'officina di Alessandro Cano. Oh, non l'ha inteso, ma con Agostino Baone l'ha inteso. Capita, ma 50 euro non l'ha visto nel locale. Grazie, non è paccato tutto quanto un prezzo della Iana di Dariddu, quel cambio un prezzo che non che ne hanno bigliato dalla Gaisci, infatti ne è incassato niente. Allora, questo ragazzo, Marini, era in Oggi in carriera, e babbo dopo pranzo e farà doppia una gacetta di legna da, si può dire, da Rubiano di Chiosso, da dove abita mio cugino. E aveva subissimo, e cosa si fa in Oggi? Oh, niente, se gli avevo spostato la macchina alla babbissa, niente. E il bello aveva detto Giumano bisogna barigliando i vizi e l'ha detto no, se vieni finito che a Garrera che era buissima luce, di si chiusi in coppano, ti si va alla campagna e ti voto rossigato tu l'altro da Rigani, l'ha detto. La buisci di Mirko, un pizzino di Casinoghi, la Garrera di Dariddu, e l'ha detto non farsi più presenti no. E non solo. Poi è uscito il figlio di quella che abita di fronte a me, l'ha chiamato un bannomo e l'ha detto non stassi lì in Oggi, che sennò Oggi si gava egli. Ma lì mi dusca maniati che subissino. Praticamente abbi le macchine, vada a bui e anda a bisogno, si va se subissino, va a comprarsi la droga. Ma oggi di me non ne lascia nessuno in macchina, alcune ne sei. A chi? Se tu lasci 2 euro, ti paccano un prezzo, ma 2 euro ti paccano. A te i taglietti sono così. Ma praticamente chi stava via gli spicchi nel posacene, ma il posacene ha chiuso, capito? Però ho visto, e l'ha attaccato, non me l'ha messo la macchina, ha messo il portacene e cosa vera, il vivo, drivo, e veniva a pigliarli, cioè ma non si è mai visto io un gatto d'abbo una macchina da furattini di vivo. E ve l'ha accaduto un pacco di sigarette, un paio d'occhiali, un altro cruscotto, una cosa. E cambia un po', però e se ne non andava mai bene. E quindi avanti, no, in carriera arriva lì, qualcuno era la sabbia. Tanto non viene nulla detto e quindi se non è gatto di pacca nero vedo la maniglia della macchina. Intanto non le passi né nulla, che Edo dice, intanto non sono comarato, non mi passi né nulla e non me ne frega niente. Metti l'anda. Lo so, ma se è una gatta cacuno, quella che si guasta e lui sotto ne ricudi due gli subissini e due ne ricudi comunque da voi, secondo me si appoggia la gatta facciata. Ma il problema è che da voi al busto di arresta Edo arrestano a te. Che non ti arrestano a te, che gli sono le dici che l'hanno cutto a chi ha fuorato, a tutti i dini. Non lo so, però. E bisogna stare attenti con chi si. Con chi si e con tutti. A chi oggi vanno in ragione a Cantobari, vanno in ragione che lui fura, non che non padrono di casa. Se tu c'è per dentro casa, che ricordo la mangiata arrecano a te, no, che tu ha furato. Allora, io da voi ti dico, ma io stavo lavorando. che lavoro fa lì, ladro? Se non è detto che sono i cuscinetti che al domenico sono entrati dei ladri in casa e come ti desideriamo a farla, ha pigliato un cucchiaio, mi ha fatto una friata, bisogna una pittorra, ma lì è la mucca. E niente, il giudice non l'ha condannato né niente. E dice sono andati tutti quanti che si rompono, come ti si chiamano, e dice, ma ho ucciso un padre di famiglia che stava lavorando. Ma non vedi che si vede pure due robe, ha detto questo di un colpo di bicco burattegro se gambo. E poi devo travaglia, che sono ladri, no? Fulani. Sono là, è un travaglio, Baete. Ho capito, non può essere pure un travaglio, ma tu non puoi venire a evadere la mia vita privata a rompermi le scatole, è un'accusa che tu sei rom e che devi mangiare, devi venire a furare a casa mia. E io prendo le motoseghe e te ne motto i bracci e anche te ne motto, perché dice se lo togli alle spalle non va bene e quindi devi affrontarlo di becco, e infatti io sono affrontato di becco nella muscia. Cazzo, una discussione, ma io non è che sono governo italiano, butto, non vedevo un accidente. Comunque ha tolto un ragazzo che ha ucciso questo delinquente perché ha detto che era autodifesa. Ecco, meno male a che di solito arricciano il padrone o arricciano il gas, come ti hanno fatto quando hanno fatto il rapino in gioielleria, la cosa, e hanno arricciato sempre il padrone alla gioielleria. E va lì il motivo, allora io l'ho seguito me a questo programma di nuovo che su di pubblicità, ma non me la metto, forse è rovescio o altro rovescio, non me la metto come si chiama quel programma. Allora li hanno condannati perché praticamente li hanno tipo sparati alle spalle, in presa, e invece li hanno imparati di faccia a faccia, e la casa diversa la canzone, hai capito? È lì che cambia il movente di chi si difende. Quindi vedete, sempre i biliani di Bittor, a chi si dice lo prendi di spalle, allora sei tu un delinquente. Sì. Bella legge di merda che avremmo che. Vabbè, cosa che vuoi fare? Chi detta legge comanda. Lo so, ma sono ingiustizia che c'è troppo, come le chiamano loro, troppe risorse che non valgono un accidente, come te subissini in chissà cura, come te avrà i subissini del bosco, praticamente cazzo gira, la patria potestane, un bigliane, famosa, babuida, là è un affidamento a traietti che valgono. Vai, avevo guidato i figliuri, io da nessuna vista ascolta, vedi i miei bizzini, e buongiorno, arrivederci, ed io in Italia non va mai più a pure fare brutti delinquenti. Questo è stato minimo dubbio. Però non ho già compreso a chi non li date nei figliuri, se gli dici no vabbè io mi piglio le bistine minnando al paese mio, a chi non prende in Italia non l'ha già compreso, questo non l'ha già compreso. Perché praticamente loro hanno fatto un vissuto in questo bosco con i loro pannelli fotovoltaici, le loro regole a chi la mamma è pure matta di cura, e i ragazzi non hanno mai lamentato niente, anche se veniva un'altra per esempio per l'istruzione tipo quest'uglia, matematica, si cose. E praticamente a Kelly non è mai pagato bassi, allora è arrivato tutto il casino, compresa, perché tu in Italia devi essere controllato e passando, se vuoi vivere in Italia, a quanto hanno fatto capire le persone. E c'era una grandissima discussione che poi mi ha rotto il ricatto, mi ha girato il canale che non è voluto, ma anche di lì, a che a me i figliosi mi vanno nei giorni, i miei vosini, perché siamo in uno stato che attenamente di pugando di ma Capone, no, Mussolini, Bumba, andare i barichi che sono diventati, ma è peggio di chi. Altro che sinistra, uno di destra, e chi sono tutti mafiosi e delinquenti a vero. Perché si è sentito la storia di quando non ucciso Borsellino ieri, veniva un mandato dall'America che ha detto di dirsi lui che avevano tenuto i fatti di cosa voleva fare in America, e tanto l'America ha mandato, come si chiama, dissi le squadre, e l'hanno fatto vapore, e mezzo quella che si italiano che era venuto, ha detto, ma io non sono rimasto scioccato, e sei rimasto scioccato da un avevi fatto, l'ha detto lui. Guarda, è una cosa fuori dal normale, fuori dal normale che io, ma che io mi devo accusare con una ricci meno che io a Lughino ne disegno. La mafia Soeddi, è lo Stato la mafia, tutti chi si fa vedere sono sempre in televisione, chi si sono la mafia. Se tu ti compusi male, uno entra nel governo, se ti compusi male, tu vai venire fuori. O di una maniera o dell'altra ti viene fuori. E allora non mi va a venire con la macchina, non mi va a venire che ha tentato strano. Io, siamo buchi vecchia. Ma va, la stavolta prima era Putin e lo delinquente. La voi era Zelensky che dice che la Cucconia che rimane da destra e da sinistra. A me mi pare che tutto il casino tra Putin e Trump le prende Trump. A chi? A chi te ne ha furato di tuo canto con Bidruccio? Con l'accusa di chi su Maduro, di un coso di Guba o di Mieri, eccetera, eccetera. Ma ragazzi, voi vi impossessate di chi si è dato di sulla nuova Groenlandia, lo sai? E appunto i dati a tutti quanti chi si viene mandato a difendere la Groenlandia. Tranne che l'Italia chi si fa sì che si è arruffianato con la Meloni, e quindi da che pacco di zucca in più e manco vedeva sé per la gaffettina, non è compreso. Ma dimmi due, non è compreso, ma che ognuno si dà la cosa che vale e non sta zingiva a rompere il cazzo di nessuno. Perché siamo come è tuffa, sono tutti una massa di una manica di delinquenti. E allora, non è così. Dico, è entrato Mudo, è entrato, come ha fatto prima delle elezioni, non è più che si è fatto di là, si è fatto di là, non era novità, sennò l'avevano molto burapà, l'avevano tirato, ma Edo l'ha pagato, il cecchino l'ha pagato, ma un po' più fa odio essere rugoso, fa buttarlo, me. Meno sono andati così, infatti a Chisinone, cazzo, la valla capisci da Kennedy, a vedere se non la sembrava in pieno, a tu besso, ai nu. Cazzo, che su la rimestigando la reccia, dopo dell'orecchio, devo dire pure a buoni, la reccina mette i biracchi, si vuole a buoni. Ma dimmi tu, guarda. Noi siamo fai denne, ventienne, ma, cioè, tutto un fiato sporcato, che tanto... Siamo riusciti a fare un disegno di base. Bravo. Va bene, dai. La siamo la perdita a cattone. E poi la gente non l'ha compresa. Avanna ne pure a buttare. Ma cosa pande a fare a buttare? Non la sede di cacca. No, ma allora io ho visto che c'è un po' di gente che ha detto che non ci va a votare, che non gliene frega più niente, e che tanto per i voti o che non i voti, e dice la mia comparata i voti. Quindi hanno detto di farlo per i viaggi, commette chissà tu che ha dei vaccini, dora qui e lì, bum, e uno l'ha scritto, fatto una cosa, giusto il disegno di successo da che fa avanza, la robustezza dei abbassiamo il rugoso demografico del mondo. Al buco di palla l'anziana ha ribestito, ha detto che devi non usare, ma la buona di musica dove funziona e non funziona. Ehi, che? Usa la verità in italiano, non manco. Sai, che magrebino, che tedesco, date a venire poco in giro. L'ho fatto. Va bene, dai. Già, ci sentiamo, va. Se coincide stasera. Andiamo a dare i cugini, approfitto e metto da mangiare i pappagallini e niente. E andiamo, ragazzi. Già ci sentiamo fra, mi ha fatto piacere da ieri, a seguire sempre in radio, tanto facendo esempi. Quindi, anche se qualche volta sento qualcuno in inglese, in francese, in tedesco, mi base di compagnia. Ciao fra, buon proseguimento, buona ricarica, quando la fai, buon pranzo. Capo, ricambiata anche a te, dai, ci sentiamo. Ciao, ciao. Ciao, ciao, va.